Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci qui, sono le 11.09, andrei subito ai titoli del nostro sommario. Sportivi, è l'ora del tagliando. Elisir di lunga vita? A trovarlo ci prova anche la ricerca. Raccolta del farmaco, un piccolo gesto che può fare la differenza. Oggi è venerdì, ormai lo sapete, parliamo di sport. Qui in studio con me il nostro amico, il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottore, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Una puntata già annunciata, poi il nostro sommario l'ha ripreso. Oggi andiamo a farci un tagliandino per capire quali controlli sono necessari per iniziare a fare attività fisica, ma noi parleremo anche dei controlli da fare quando stiamo già facendo attività fisica. Magari spuntano dei piccoli acciacchi e uno dice vabbè, temporeggio, vado oltre. Invece bisogna comunque farsi controllare, senza sempre finire dal medico però, quindi una via di mezzo. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. Dottor Confalonieri? Sì, oggi ci mettiamo un po' a disposizione dei nostri ascoltatori, al loro servizio, per capire insieme cosa fare per cominciare bene a fare lo sport, quindi per non cominciare con il piede sbagliato, e magari anche cosa fare quando ci accorgiamo che qualcosa non funziona. E questo riguarda sia noi, sia naturalmente i nostri bambini, perché spesso il problema è cosa devo fare, cosa devo controllare, cosa devo verificare per affidare mio figlio con serenità e tranquillità ad una società sportiva. Ecco, quindi è un po' il tema di oggi. Per tutte le età, dal bambino all'anziano che magari non ha mai fatto sport, finalmente l'hanno convinto e deve capire se può farlo e come può farlo. E anche per chi vuole passare da uno sport ad un altro. Assolutamente sì, perché non tutti gli sport hanno le stesse indicazioni e le stesse controindicazioni. Allora, per aiutarci abbiamo in linea il dottor Ugo Monsellato, che è direttore del centro di medicina dello sport di Bareggio. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Dottore, io vorrei proprio partire con lei dall'ABC. Parliamo di questo benedetto certificato di idoneità. L'idoneità sportiva è diventato un obbligo dopo il 1982 con la promulgazione della legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive agonistica, ed è una legge del 18.282, o non agonistica, che è una legge del 28.283. Quindi ce ne sono due. Esatto. A seconda del profilo dello sportivo. Senta, e che cosa serve? Quanto dura? Il certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica, la durata di un anno. Escluso rare eccezioni, per alcuni sport a basso impegno, che per l'agonistica per esempio è previsto 2 anni, facendo esempio il golf piuttosto che il bocce o il tiro con l'arco, ma sono attività comunque di basso impegno. Per la maggior parte, comunque quasi tutte le attività sportive, l'idoneità è prevista della durata di 12 mesi. Dottor Confalonieri, come si compone una visita per fare l'idoneità? Ma come deve essere fatta per bene? Forse poi ci mi aiuterà o mi correggerà il dottor Monsellato, però diciamo che la visita di idoneità è focalizzata soprattutto, io dico forse anche un po' troppo sbilanciata in questo senso, sulle problematiche di tipo respiratorio e sulle problematiche di tipo cardiologico. Quindi c'è una raccolta di notizie, una visita medica generale, poi c'è dei test di valutazione della funzionalità respiratoria e una visita cardiologica con un test di valutazione della risposta cardiaca allo sforzo, che forse l'aspetto più importante, no, dottor Monsellato, di questa visita di idoneità? Sicuramente l'aspetto cardiologico è quello che prevale nella valutazione di idoneità, e questo è dovuto al fatto che in alcune attività sportive, soprattutto quelle agonistiche, l'impegno cardiovascolare è quello che rappresenta nell'immaginario collettivo la paura maggiore, che il rischio cardiovascolare possa essere importante. Dottor Monsellato, tutti questi certificati di idoneità servono, ci aiutano comunque a fare sport in sicurezza? Ci sono dei dati che lo confermano, cioè non è un certificato, io parlo per quelli di idoneità per sportivi non agonisti, quindi quelli che fanno sport agonistico magari sono più controllati, ma comunque ha una sua utilità, è molto prezioso. I dati, dicevo, lo confermano, perché, dottor Monsellato? Ma veda, per quanto riguarda dei dati che sono stati confermati in un ultimo congresso a cui ho partecipato, si parla della morte improvvisa di tipo cardiovascolare nella popolazione. Sì. Noi negli ultimi 25-30 anni, nella popolazione normale, il tasso di mortalità per morte improvvisa è rimasto più o meno non variato. Sì. Si parla di un caso ogni 100.000 abitanti all'anno. Nell'ambito dello sport, invece, dove questo dato negli anni 80 era molto elevato, si parlava di una mortalità rispetto alla popolazione normale quadruplicata come fattore di rischio, abbiamo visto invece che negli ultimi anni si è ridotta del 90%, diventando anche più bassa rispetto alla popolazione normale. Questo è una vittoria della prevenzione, se vogliamo, perché gli atleti, noi sappiamo che sono soggetti a periodici controlli. E come diceva proprio prima il dottor Confalonieri, priorità viene data, grande importanza viene data all'aspetto cardiovascolare. Quindi questo è un successo, che è bene sottolineare. Chi può fare il certificato di idoneità? Qual è il medico, lo specialista? Allora, per quanto riguarda l'idoneità sportiva agonistica, è il medico dello sport che ha l'autorizzazione a rilasciare questo certificato. Ah. Nello specifico, Regione Lombardia, non tutti i medici dello sport, ma quelli che sono abilitati a farlo, ovvero quelli che sono presenti nei centri di medicina dello sport accreditati o riconosciuti idonei a poterlo fare, o anche in studi professionali, medici dello sport però che hanno chiesto l'abilitazione a poterlo fare. Quindi c'è una selezione importante, questo per quanto riguarda la Regione Lombardia. Altre regioni utilizzano anche criteri un po' diversi, ma prevalente la posizione a livello nazionale è questa. Il certificato dello stato di buona salute, quello che viene richiesto, sì? Esatto. Sì, dica. No, che viene richiesto magari all'iscrizione in palestra, quando i nostri bambini devono fare magari delle attività extrascolastiche, non è un altro tipo di certificato, è quello praticamente di un'idoneità sportiva non agonistica, per sport non agonistico. Sono la stessa cosa? No, questo è diverso, perché questo di fatto è un certificato di stato di buona salute che viene rilasciato dai medici di famiglia, sì, previa una visita medica, oppure può essere rilasciato dai medici dello sport, sia medici dello sport libero professionisti che medici dello sport che operano all'interno dei centri, dove però in genere la procedura è diversa, perché in quasi tutti i centri, che io sappia, questo certificato di stato di buona salute viene rilasciato eseguendo comunque alcuni accertamenti. Comunque sempre viene fatto un elettrocardiogramma, quindi riteniamo che questa linea sia comunque quella che garantisca di più. Sì. Senta, dottor Monsellato, Daniela da Treviso ci scrive: volevo chiedere se il certificato medico dal medico di famiglia deve o meno essere pagato. Ecco, per quanto riguarda l'idoneità sportiva di tipo non agonistica, quindi il certificato di stato di buona salute, è purtroppo un certificato a pagamento. Sì. Ci sono rare eccezioni, come per esempio nell'attività scolastica, su richiesta delle scuole, per attività scolastiche, ci sono alcuni. Quindi tocca pagarlo. Tocca pagarlo, dottor Monsellato. Sì, certificato a pagamento. Va bene. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi. Abbiamo le idee più chiare. Buona giornata. Buona giornata anche a lei, vi ringrazio. Grazie. Buona giornata. Dottor Confalonieri, quindi? Beh, quindi diciamo che... Chi si controlla va sano e lontano. Ecco, qualche considerazione aggiuntiva. La prima, le idoneità agonistiche vengono fatte praticamente da tutti coloro che fanno sport presso una società sportiva e che sono giovani. Ecco, direi che nei giovani ormai la percentuale di bambini, di ragazzi che fanno la visita di idoneità è molto alta. Purtroppo questo tipo di pratica è ancora molto poco diffuso, nonostante la legge, in chi fa attività in età più evoluta e laddove i controlli da parte delle società sono minori. Sarebbe buona cosa che si diffondesse ancora di più, anche in relazione ai dati epidemiologici che citava il dottor Monsellato. Vogliamo fare una domanda secca ai nostri ascoltatori per invitarli a entrare in trasmissione all'824 0024, se avete fatto questo certificato e soprattutto se qualcosa, mentre fate attività fisica, vi crea sospetto, se avete pensato di parlarne con il medico oppure se fate finta di nulla. Dottor Confalonieri. Sì, Quindi se avete fatto l'idoneità, se la fate tutti gli anni, che è un altro aspetto interessante, se vi siete limitati all'avviso di idoneità prima di affrontare lo sport voi o i vostri figli, o magari l'avete integrato con qualche altra valutazione più orientata, per esempio, sugli aspetti muscoloscheletrici, ortopedici o strutturali e non solo su quelli respiratori e cardiovascolari. Raccontateci un po' che tipo di tagliando fate, ogni quanto lo fate e se siete soddisfatti valutazioni che hanno fatto, perché magari fate per obbligo ma non siete contenti. Bravo, io volevo puntare molto sulla soddisfazione. 800 24 0024 messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Angiotensina, in questa settimana questo nome, che poi quello di un ormone, ha guadagnato le pagine dei giornali e la sua improvvisa popolarità è legata ai risultati di una scoperta che arriva dal Mario Negri. Per questo ho chiesto al professor Remuzzi, che dell'Istituto di Ricerca è il coordinatore, di aiutarci a fare un po' di chiarezza. Devo dire che ho dovuto vincere un po' la sua retrosia a parlarne, ma credo di aver fatto bene ad insistere per riportare un po' la notizia nei termini corretti. Professor Remuzzi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Le tocca, professore. Non avrei voluto farlo, parlare delle cose mie mi crea un po' di problemi. Però, dei nostri collaboratori, di tante persone che hanno lavorato a questa ricerca. Va bene, faccia uno strappo. Facciamo uno strappo. Allora, è successo che con un'operazione di ingegneria genetica i ricercatori del Mario Negri, guidati dalla dottoressa Benigni, hanno creato degli animali privi del recettore di tipo 1 dell'angiotensina. Questi animali col tempo hanno meno arteriosclerosi, meno danno al cuore, al rene, al cervello, perché c'è meno danno ossidativo. E vivono più a lungo. L'angiotensina è un ormone che regola il tono dei vasi sanguigni e la pressione arteriosa. Per agire, l'angiotensina si deve legare a certi recettori, ne conosciamo almeno due. L'angiotensina è la chiave, il recettore è la serratura. Topi modificati così che uno dei recettori dell'angiotensina non sia più espresso delle membrane, sulla membrana delle cellule, hanno la chiave ma non la serratura. La chiave non può entrare nella serratura perché la serratura l'abbiamo fatta sparire, vivono più a lungo di topi normali. Quanto più a lungo? Questi animali vivono quasi il 30% in più degli animali normali. Se fosse vero per l'uomo, sarebbe come avere degli uomini che vivono fino a 100 anni. In forma però, perché abbiamo visto che questi animali hanno meno danni a tutti gli organi, la cui funzione si deteriora col tempo, e questa è poi la ragione dell'invecchiamento. In questi studi ci sono delle implicazioni pratiche, perché il togliere, lo spegnere rene della angiotensina aumenta i geni della longevità. C'è un legame che abbiamo trovato tra recettore per l'angiotensina e espressione del gene per la longevità. Quindi ci sono questi geni della longevità che tornano a essere espressi se uno fa sparire il recettore per l'angiotensina. Ecco, geni per la longevità ne sono stati già descritti. Questi studi però sono interessanti perché noi abbiamo già farmaci che si legano ai recettori dell'angiotensina e ne impediscono la funzione. E sono farmaci già molto usati per il trattamento della pressione alta, che hanno pochi effetti collaterali. Oggi questi farmaci noi li impieghiamo per abbassare la pressione, ma se quello che hanno visto i ricercatori del Mario Negri nel topo dovesse trovare conferme nell'uomo, un domani questi farmaci si potrebbero utilizzare, per esempio, per allungare la vita. Professor Remuzzi, sin qui la notizia, ma secondo lei come l'abbiamo data? Come è stata data anche dai giornali, dalle televisioni? Abbiamo fatto degli errori? Ci possono essere dei fraintendimenti? Alcuni giornali l'hanno trattata benissimo, altri giornali hanno sbagliato l'impostazione della notizia con dei titoli perfettamente sbagliati. Per esempio, un titolo: negli ipertensivi l'elisir di lunga vita non riflette per nulla quello che abbiamo detto, anzi è vero tutto il contrario. Se spegniamo il gene che codifica per il recettore dell'angiotensina, quindi eliminiamo il recettore dell'angiotensina, la pressione si abbassa, proprio perché l'ormone che aumenta la pressione, l'angiotensina, la chiave, non entra più nella serratura, il recettore. Quindi la notizia data da molti giornali con questo titolo, negli ipertensivi l'elisir di lunga vita, è davvero sbagliato. Professor Remuzzi, dove porteranno questi studi? Pensiamo adesso di voler capire quali sono le ragioni per cui spegnere questo recettore porta ad aumentare i geni della longevità. Perché se riuscissimo a capire i meccanismi molecolari, dal momento che l'aumento dei geni della longevità si associa anche a un maggiore benessere per cuore, rene e cervello, L'obiettivo di queste ricerche potrebbe essere quello, forse non tanto e non solo di allungare la vita, ma di farci vivere meglio, cioè di evitare il danno ossidativo a questi organi che succede inevitabilmente con l'età e che è legato al progressivo spegnersi di questi geni, geni della longevità, che ritornano fuori se noi spegniamo il gene che codifica per il recettore dell'angiotensina. Professor Remuzzi, io la ringrazio, mi fa piacere che lei questa settimana abbia commentato questa notizia che devo dire ha acceso molte speranze, adesso riportata un po' nei termini scientifici ci sembra più chiara. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie tanto. Buona giornata. Arrivederci. Pronto soccorso. Sportivo, è l'ora del tagliando. Ne parliamo oggi insieme al dottor Confalonieri, 824 0024. Stanno arrivando numerose richieste, telefonate, messaggi che, degli ascoltatori che dottor Confalonieri ci raccontano quali, a quali esami si sottopongono. Devo dare però la precedenza a Fernando che ci sta aspettando da Viterbo. Buongiorno Fernando. Buongiorno signora. Una cortesia. Io ho un figliolo di 38 anni che fa... palestra amatoriale. Sì. E c'ha, però sotto sforzo mi dice che c'ha battiti cardiaci che arrivano a 160. È normale o c'è qualche cosa da controllare? Grazie Fernando. Dottor Confalonieri. Sotto sforzo è assolutamente normale avere battiti cardiaci anche sopra i 160 fino a 170-180. L'importante è verificare che terminato lo sforzo la frequenza scenda rapidamente e soprattutto che sia una frequenza regolare, cioè che non ci siano aritmie, non si avverta quella mancanza di un battito che è il tipico sintomo quando è presente un'aritmia. Quando praticavo, questa voglio leggerla di Monica, secondo me è interessante perché mi sembra un problema molto diffuso. Monica ci scrive da Milano. Quando praticavo attività agonistica atletica leggera facevo le visite annualmente, mai rivelato un'anomalia cardiaca, un prolasso della mitrale. Questo perché si vede solo con ecografie. Dottor Confalonieri, allora ci sono degli esami, uno fa gli esami ma non vede tutto? Non vede tutto, questo è evidente perché c'è un rapporto costo-beneficio che va sempre tenuto presente. Quindi l'ecografia viene fatta come esame integrativo quando la visita evidenzia qualcosa di atipico. Sì. In questo caso probabilmente il prolasso della mitrale della nostra ascoltatrice era assolutamente benigno e non scatenava quelle aritmie che sono una delle conseguenze a rischio del prolasso stesso. Qualora all'atto dell'elettrocardiogramma, durante la visita, si fossero evidenziate queste aritmie, per legge l'istituto l'avrebbe obbligata a fare un'ecografia e si sarebbe chiarito il quadro. Quindi è un'osservazione corretta, però, ma da un punto di vista preventivo, se l'elettrocardiogramma era stato letto in modo adeguato, non sussistevano rischi. Allora, molti ascoltatori veramente si stanno controllando, si controllano molto. Ad esempio, un ascoltatore ci scrive, faccio una visita medico-sportiva completa, quindi elettrocardiogramma, anche sotto sforzo, spirometria ed un'ecografia. E quindi mi sembra che i nostri ascoltatori siano molto sensibili. Ad esempio alcuni, come ci suggerisce Francesco, uniscono anche gli esami del sangue annuali. Così ci racconta Francesco che fa una visita per agonismo ogni anno dal lontano 96, sta monitorando da 12 anni il suo stato di salute. Ecco, questa ha è un'osservazione... un altro consiglio da dare. L'esame del sangue mi sembra una buona indicazione. Questa è un'osservazione importante perché all'idoneità è previsto l'esame delle urine ma non l'esame del sangue. L'esame del sangue ci dà dei dati in più che sono significativi ed importanti soprattutto per chi fa sport in modo molto molto impegnativo e là possono evidenziarsi degli squilibri. Se no direi che l'indicazione degli esami del sangue per lo sportivo è analoga a quella per la popolazione generale. Farli ogni tot anni come check-up sulle condizioni di salute in genere. Rapidamente, Luisa dalla provincia di Milano, buongiorno e benvenuta. Pronto? Buongiorno Luisa. Buongiorno, Allora, volevo fare due domande. Una che riguarda me, sono una donna di 52 anni, ho fatto 3 gravidanze con la comparsa di vene varicose. Sì. Sono molti anni che non faccio nulla di attività fisica, quest'inverno ho deciso di mettermi gli sci da fondo con la disastrosa comparsa il giorno dopo di dolori alle gambe, quindi mi sono dovuta bloccare. Volevo sapere questo, con problemi di circolazione venosa e comunque consigliabile fare attività fisica tipo ciclette, camminate lunghe, corse. Sì, quindi ecco, che mettano in movimento le gambe. Dottor Confalonieri. Direi di sì, l'attività fisica, soprattutto quelle che citate dalla nostra ascoltatrice, favoriscono il ritorno venoso e quindi a medio-lungo termine riducono il problema delle vene varicose. I dolori di cui ho sofferto non erano legati a un problema circolatorio, ma erano normali dolori muscolari da post-esercizio. Eccoci, siamo tornati come promesso. Oggi parliamo di attività sportiva, lo facciamo ogni venerdì, ma dei controlli da fare prima e durante e anche dopo, dottor Confalonieri. Perché no? Alcuni ascoltatori mi scrivono: o facevo tanta attività sportiva, ho continuato, ho preso l'abitudine di controllarmi, è una buona abitudine che mi è rimasta. 824 0024, adesso però voglio parlarvi di una giornata importante. Domani, 14 febbraio, molti di noi lo ricorderanno come San Valentino, è una giornata importante perché in 3.000 farmacie che ci sarà possibile acquistare dei farmaci per donare. Adesso ne parliamo con il dottor Marcello Perego, farmacista e vicepresidente della Fondazione Banco Farmaceutico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, nona edizione della giornata raccolta del farmaco. Dottor Perego, nel dettaglio questa iniziativa. Esatto, siamo alla nona edizione e speriamo di avere successi come le precedenti edizioni. Un gesto semplice. Sa che noi portiamo buono, eh? Dottor Perego, ogni anno venite, ogni anno un successo, no, mi sto, però porta buono passare da Radio 24. Assolutamente, l'anno scorso infatti abbiamo raccolto più di 300.000 farmaci e quindi anche grazie al contributo di Radio 24 abbiamo avuto un ottimo successo. Dicevo che si tratta di un gesto molto semplice, basta andare nelle farmacie che espongono la locandina del banco, sono locandine verdi in cui ci troviamo il faccione di Cevoli e della Benoni che anche quest'anno che è un faccino, che è un faccino a differenza del faccione. Comunque quindi due volti nuovi, noti che ci invitano a donare. Quali farmaci si possono acquistare? Farmaci da banco, immagino. Assolutamente farmaci da banco. Principalmente gli enti ci hanno chiesto farmaci contro la febbre e contro i dolori. Questi sono i farmaci che principalmente il banco vuole raccogliere. Sì. E che poi distribuirà agli stessi enti presenti sul territorio. Perfetto, quindi vengono raccolti e vengono ridistribuiti agli enti. Dottor Perego, vuole fare un ulteriore appello? Andate in farmacia. Ascoltiamo la sua proposta, quindi Radio 24 porta bene, quindi speriamo di aumentare il record dell'anno scorso in modo tale di poter aiutare ancora più persone. Questo è l'augurio e l'appello che faccio a tutti gli italiani che negli anni scorsi sono stati molto molto generosi. Grazie dottor Perego, buona giornata. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Abbiamo tantissime telefonate, ma quanto sono sportivi i nostri ascoltatori, sportivi generosi. Attenti. Attenti. Andiamo a Elio che ci chiama da Salerno. Buongiorno Elio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Posso fare una considerazione sul famoso certificato? Sì. Io ho un mio figlio che fa, come so dire, preagonismo a nuoto. Sta tutti i giorni in piscina. Sì. Ogni anno ovviamente è una struttura pubblica, una struttura universitaria, gli chiedono il famoso certificato. Sì. Che gli fa il medico di famiglia, ovviamente, che lo conosce da quando è nato, però mio figlio non ha mai fatto un elettrocardiogramma, non ha mai fatto. Quindi dico, purtroppo il medico di famiglia non può fare altro che non attestare che questo bimbo sta bene. Allora Elio, vediamo se è vero che il medico di famiglia non può fare altro che non guardare in faccia al bambino e dire no, dai, sei sano e forte come un pesce, nuota. Dottor Confalonieri. Elio ha evidenziato due problemi fondamentali. Il primo, diciamo che la sua attività è al limite dell'attività agonistica, perché facendo nuoto tutti i giorni siamo già in un ambito di attività impegnativa come un'attività agonistica, quindi sarebbe più utile che la società o l'ente presso il quale va gli chiedesse un certificato di idoneità agonistica. Ciò detto, comunque anche il certificato di sana e robusta costituzione cosiddetto dovrebbe prevedere una visita internistica completa e l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, così come ci aveva detto il dottor Monsellato. Quindi in questo caso è più imputabile, diciamo così, alla superficialità dei medici che non all'aspetto legislativo, alla mancanza di un reale controllo. Ma poi io è chiaro posso che posso chiederla? È nel mio diritto chiederla, è nel suo diritto chiederla e riceverla. Poi è chiaro che applicando anche, se vogliamo, un po' il buon senso, il medico che conosce un ragazzo da tutta la vita sa che fondamentalmente non ha patologie, il cuore glielo ascolta regolarmente, dà con una certa tranquillità questo certificato di sana e robusta costituzione anche senza l'ECG. Però si dovrebbe fare. Quindi un consiglio per Elio e per i genitori che si ritrovano nella sua situazione? Un consiglio per Elio è, primo, chiedere alla società se non sarebbe il caso di un certificato di idoneità agonistica. Secondo, chiedere informare il proprio medico che l'attività è realmente impegnativa e quindi forse sarebbe utile un elettrocardiogramma. Però, ad esempio, Carlo da Bergamo ci scrive, questo è per lei: i medici sportivi fermano, non sono sufficientemente preparati e, dovendo firmare i certificati, fermano ragazzi per problemi che successive visite specialistiche dai dottori valutano risibili. Quindi li fermano, invece poi a distanza di tempo non dovevano essere fermati. Perché, dottor Confalonieri, è uno sbaglio o una precauzione? No, non perché non sono preparati, ma perché fanno il loro lavoro. Allora, la visita di idoneità costituisce un primo filtro. Con gli esami che vengono fatti a questo primo livello si possono evidenziare dei problemi potenziali che vanno approfonditi. Questi problemi vengono approfonditi con esami successivi che, nella gran parte dei casi, chiariscono che in effetti non c'è una patologia importante sotto. Ma quindi voglio dire due cose. La prima, a tutti i genitori, tranquillizzatevi: se vostro figlio in prima battuta viene bloccato a un'idoneità, non significa che è malato, ma significa che va approfondita la sua situazione. Nel 90% dei casi è comunque tutto ok. Secondo, questo viene fatto per evitare di sottoporre tutti a un numero di esami enorme, perché a quel punto il costo sarebbe tale che probabilmente non si farebbero più le idoneità o non sarebbero più a carico della regione o dello Stato, come avviene attualmente, quindi con un servizio non da poco. La regione si fa carico del costo, ma mi sottopone soltanto a un primo screening. Allora, quindi importante effettuare queste visite, questi certificati di idoneità prima ma anche durante, per capire se l'attività che abbiamo scelto è indicata per il nostro fisico e continua ad esserlo, perché a volte il modo, l'intensità con cui ci buttiamo nel nostro sport preferito può provocare alcuni danni. Questo è stato già tema di numerose nostre trasmissioni, ci torniamo volentieri, perché se è vero che l'attività fisica è un farmaco, ha delle indicazioni, delle controindicazioni, ma deve avere il suo dosaggio, il giusto dosaggio. Ne parliamo con il professor Lorenzo Aulisa, che è direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia del Gemelli. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno professore, senta, lei dovrebbe oggi farci un po' l'avvocato, cioè segnalarci quando e che cosa rischiamo, quando esageriamo. Il nostro tallone d'Achille spesso è la schiena, abbiamo dedicato una puntata inizio settimana al dolore alla schiena, a volte è proprio un'attività fisica non equilibrata, non indicata, eccessiva a provocare problemi. Questo può capitare nei bambini e anche in chi bambino non è più. Quali sono le indicazioni, campanelli d'allarme, che cosa dobbiamo sapere? Allora, bisogna sapere una cosa, che qualunque attività sportiva comporta una sollecitazione notevole su tutte le nostre strutture anatomiche, sì, dalle vertebre ai legamenti, ai muscoli, eccetera. Queste sollecitazioni abnormi in alcuni casi possono provocare dei danni sulla colonna vertebrale come sulle altre articolazioni. Statisticamente noi sappiamo che la lombalgia colpisce il 2% della popolazione non sportiva, mentre colpisce il 15% della popolazione che porta avanti uno sport a livello agonistico o subagonistico. Certo. Questo non vuol dire, vero professore, che l'attività fisica faccia male alla schiena. Fa male alla schiena un'attività fisica non adeguata. Giusto? Esatto, questo non deve spaventare. Cioè, noi dobbiamo riportare i dati per prevenire, conoscere la patologia per fare della prevenzione e far sì che lo sport, che deve portare benefici all'organismo, non diventi esso stesso poi un fatto negativo. Conoscere significa proprio questo, per poter fare una giusta prevenzione. Dicevamo prima la differenza che c'è fra i bambini e gli adulti. Sì. I bambini sono molto più labili da questo punto di vista, cioè noi nei bambini abbiamo due aspetti che sono la maggiore elasticità dei tessuti e, sì, quindi la loro maggiore permeabilità alle azioni meccaniche che derivano da sport estremi. Sì, noi diciamo che sono di gomma. Della crescita. Sì. Quindi sui bambini cosa, a quale aspetto dobbiamo stare fare attenzione, professore? Dobbiamo innanzitutto cercare di evitare sport estremi sin dalla tenera età. Sì. Il bambino non deve fare un solo sport, ma deve farne più di uno, deve fare qualcosa di armonico, mentre spesso la pratica di uno sport si focalizza su certi distretti dell'organismo. Mm. E soprattutto non deve superare un certo numero di ore di attività sportiva. Esiste uno studio molto interessante fatto da Goldstein che dice che riporta un 57% di lombalgia nei soggetti che fanno più di 15 ore settimanali di sport, sì, mentre questa percentuale si riduce al 30% in quelli che si allenano per meno di 15 ore a settimana. Quindi per i bambini non bisogna esagerare, devono fare esercizio, devono fare più sport, devono in qualche modo crescere proprio con lo sport senza esagerazioni. Professora Ulisa è ancora con noi. Allora, eravamo rimasti ai bambini, adesso parliamo di chi bambino non è più, parliamo di noi, insomma. Beh, sicuramente gli aspetti sono meno preoccupanti. Nell'adulto la patologia prevalente è quella discale. Le lombocefalgie da discopatia o da ernia del disco sono le alterazioni più frequenti negli vari sport, per quanto riguarda sempre ovviamente la colonna vertebrale. Nell'adulto non c'è la crescita, quindi non c'è la possibilità che si abbia una deformazione progressiva delle vertebre, che può portare invece a patologie croniche nei bambini. Importante negli adulti è dosare il gesto atletico, cioè bisogna essere preparati, non bisogna fare da sé, bisogna prepararsi in modo adeguato, in modo da preparare i nostri tessuti allo sforzo che quel determinato esercizio richiede, sì, e soprattutto migliorare l'esecuzione dell'esercizio stesso per evitare che lo sforzo in condizioni di allenamento muscolare insufficiente sia tale da superare quelle che sono le caratteristiche fisiche dei nostri tessuti e soprattutto dei dischi in questo caso, e che quindi provocano poi delle lesioni permanenti a livello dei dischi. Poi c'è un'alterazione... Sì. Mi dica, professore? Poi c'è un'alterazione legata ai diversi sport, cioè bisognerebbe anche scegliere lo sport in base alle sue alle proprie condizioni fisiche iniziali. Si sa che la ginnastica provoca lombalgia nell'85% dei casi, mentre nei calciatori la percentuale è molto più bassa. Insomma, c'è sempre lato, ogni sport al suo, no, alla sua ombra. Esatto. Il dottor Confalonieri voleva aggiungere qualcosa? Sì, mi riaggancio proprio a quanto diceva il collega adesso. Sarebbe fondamentale in questo tagliando iniziale che andiamo a fare anche valutare quali sono i fattori di rischio, i fattori predisponenti, patologie a livello scheletrico, a livello muscolare, e quindi da un lato scegliere lo sport più adatto in funzione di questi fattori di rischio e dall'altro eventualmente integrare la pratica di questo sport con una ginnastica, con un'attività, con delle terapie di tipo preventivo che riducano il rischio stesso. Professor, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Lei che tipo di attività fisica fa? Io tennis e nuoto. Tennis e nuoto, promosso quindi. Ma dovrei smettere il tennis e continuare col nuoto. Va bene, buona giornata professore. Grazie. Grazie a lei. Allora andiamo da Mariano che ci chiama dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda al dottore. Io pratico attività fisica, diciamo faccio ciclismo da diversi anni, faccio regolarmente ogni anno visita medica, ecografia a tutti gli organi, e da quest'anno ho iniziato anche un po' a correre a piedi, diciamo, però ho notato che negli ultimi analisi mi si è abbassato un po' l'ematocrito e il, diciamo, l'emoglobina, di un 6% l'ematocrito e di un 3% l'emoglobina. Sì. Volevo sapere se era una cosa normale dovuta al troppo sforzo oppure alla carenza di, non so, di ferro, di qualche cosa così. Grazie Mariano. Dottor Confalonieri. Sì, diciamo che siamo nell'ambito di effetti collaterali normali legati allo sport. Fa uno sport di resistenza, c'è un elevato consumo di ossigeno e quindi c'è un elevato utilizzo dei trasportatori dell'ossigeno, in particolare dei globuli rossi e dell'emoglobina. E c'è un adattamento allo sport che è una sorta di emodiluizione, cioè aumenta la parte liquida del sangue. Quindi è un effetto dello sport che fa, e finché le variazioni sono di questo tipo non ci sono problemi per la salute. Ha già la sana abitudine di fare un controllo ogni anno, continua a farlo e vede se i valori si attestano su questi livelli o continuano a diminuire. Se continuano a diminuire si può valutare eventualmente un'integrazione. Allora, molti nostri ascoltatori che ci stanno raccontando come si controllano vogliono sapere da lei se i loro controlli sono adeguati. Ad esempio, ne prendo uno: sono Massimo, pratico nuoto da 5 anni a livello amatoriale, faccio esami del sangue e urine più visita cardiologica ogni 2 anni, può bastare? Può bastare sicuramente. Quello che io eventualmente aggiungerei è una valutazione ortopedica relativa alla situazione delle spalle. Le spalle sono un'articolazione a rischio per chi fa nuoto, quindi valutare che tutto funzioni bene a livello delle spalle può essere interessante ed importante. Prima di salutare Iva, che ci chiama da Reggio Emilia, andiamo al nostro consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro dal titolo Baci. Abbiamo pensato a domani, quindi un libro che sicuramente è in tema con la giornata di domani. Per riceverlo a casa dovete mandare non un'email ma un bacio a essere e benessere @radio24.it, naturalmente con il titolo del libro, il recapito e il numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Allora Iva, buongiorno, siamo da lei, benvenuta. Buongiorno. Allora, io volevo dire intanto che io, giocando a pallavolo da tanti anni, ormai da 13 anni, tutti gli anni puntualmente la società sportiva ci fa fare il controllo alla medicina dello sport, sì, dove ci fanno la prova con con il tapirulan o la bicicletta e poi l'elettrocardiogramma e tutto il resto. Mm. E quindi di solito quando uno fa parte di una società sportiva questi controlli vengono sempre fatti. Gratuitamente, naturalmente. Gratuitamente, sì, mm, sì, sì. Anche per i ragazzi però, vero dottor Confalonieri? Ci sono dai 10 ai 18 anni? Dai 10 ai 18 anni in gran parte delle regioni italiane paga la regione la visita. Dopo o paga il privato o spesso paga la società perché rientra nei servizi, okay, che offre. Ok, questo per sì, prendere spunto da quanto ci raccontava Iva. Quindi Iva, lei fa tutti gli anni controlli regolari. I controlli regolari. Quest'anno sono in dolce attesa. Auguri. Volevo sapere, grazie. Siccome l'ho scoperto da 3 settimane, ho fatto la visita perché io gioco a pallavolo facendo il centrale, saltando di qua e di là, non ho avuto danni, comunque tutto bene. Volevo sapere se, siccome il 27 di febbraio ho l'appuntamento appunto per fare il test di idoneità, sì, che vale poi fino al prossimo anno, se secondo il dottore potevo farlo lo stesso, ma magari facendo la bicicletta e non il tapis roulant, oppure non è consigliabile, ecco. Grazie Iva, intanto tanti auguri, dottor Confalonieri, per una... Ma la visita la può fare, obiettivamente, visto che comunque in questo momento, dato il tipo di sport traumatico, dovrà interromperlo durante la gravidanza, ritengo che sia forse più intelligente a questo punto per un anno soprassedere, poi farà la visita quando riprenderà, proprio per vedere cosa è successo con la gravidanza, se è ancora tutto ok, e quindi si può riprendere tranquillamente. Dottore, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo con un altro tema, forse qualche ideina ce l'abbiamo già. Sì. Vogliamo anticiparla? No. Meglio singolo o in coppia? Cioè meglio fare uno sport solo o meglio abbinarne due? Scegliete quello giusto. Al prossimo venerdì, noi invece ci sentiamo domani con Questa casa non è un albergo, con una puntata che insomma per San Valentino, ma non voglio anticiparvi oltre. Buona giornata da Nicoletta Carbone.